punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Ancora un saluto a tutti voi da Gigi Donelli, sono le 9:12 minuti, 30 secondi in questo momento e siamo dunque arrivati al momento, al nostro appuntamento con la settimana raccontata, ascoltata, partecipata, visto che un contributo importante lo date voi ascoltatori con le vostre telefonate, la vostra partecipazione, vista appunto, dicevo, ascoltata con e attraverso Radio 24. Una settimana che avete sentito, anche abbiamo parlato prima durante la rassegna stampa, che si conclude con un fine settimana delle decisioni. Abbiamo parlato a lungo del referendum che ora lasceremo, metteremo da parte nel rispetto appunto delle ore in cui si entra nella fase di silenzio elettorale, insomma quello che doveva essere detto di fatto è stato detto. La politica attende anche in prospettiva di nuovi appuntamenti. Abbiamo sentito dire dal premier Berlusconi che comunque vada, non sarà decisivo. Abbiamo sentito che c'è anche un rischio dall'altra parte e il riferimento è stato fatto stamattina alla leadership di Bersani, se le cose dovessero andare invece male per la sua posizione. Ecco, decisione di questo tipo, ma in realtà questa è stata una settimana di numerose decisioni, attese o meno, una delle quali è sicuramente quella che è arrivata dal Brasile, che ha fatto discutere, che ha prodotto rabbia nel nostro paese, ma non c'è solo quella. Mi riferisco per esempio alla Torino-Lione, da cui ripartiremo tra qualche momento. È stata una attesa molto lunga per un processo che dura ormai da 20 anni, quello della costruzione di un progetto ferroviario attraverso le Alpi, che ha coinvolto, come probabilmente nessun altro progetto di ingegneria civile, popolazioni, politica, intellettuali, esperti, eccetera, eccetera, che in qualche modo drammaticamente, se vogliamo, si è riposizionato questa settimana in cui siamo arrivati a parlare di militarizzazione di un cantiere, ecco, cosa che poi è stata smentita, negata dal ministro dell'interno, ma insomma l'idea stessa è piuttosto inquietante. Altre decisioni che sono state comunque avviate, affrontate in questa settimana, proprio all'inizio della settimana, ve lo ricordate, si è aperto a New York il processo Strauss-Kahn. È stato in realtà un'udienza della durata di ben 4 minuti, per dire che si riparte a luglio, per dire da una parte Strauss-Kahn, quindi direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, sono innocente, ma anche perché l'avvocato invece della cameriera che lo accusa di un tentativo di stupro, che sarà invece presente in aula a partire dunque dal mese prossimo, dal mese di luglio, quando il giudice ha richiamato le parti. Insomma, decisioni prese, decisioni che dovranno essere prese nelle prossime ore. Questo è un po', se vogliamo, il sottotitolo, il filo rosso di molte notizie di questa settimana, che tra un momento, subito dopo gli aggiornamenti con la viabilità, andremo a ripercorrere insieme. Punto e a capo. Si tratta di lavorare insieme con il ministro dell'economia e del tesoro per la stabilità e il recupero del debito pubblico, l'altra la questione del rilancio. Credo che sia Lega che il Popolo della Libertà abbiano concordato insieme col ministro Tremonti e con il presidente del Consiglio che su questi due paletti bisogna con forza procedere. Maurizio Lupi, esponente PDL, vicepresidente della Camera, racconta Radio 24, l'avete intuito probabilmente, ancora in auto la sua visione del vertice Berlusconi, Bossi, Tremonti, che ha aperto la settimana politica, quindi Berlusconi, Bossi da una parte, l'incontro con Tremonti e la definizione del piano d'azione che riguarda ovviamente al centro anche i temi della borsa, della politica fiscale. Ecco, un'ora di confronto si è detto appunto giovedì tra Berlusconi e il ministro dell'economia. Tremonti hanno sostanzialmente concordato il percorso che dovrebbe, nelle intenzioni di entrambi, porre fine al braccio di ferro sulla riforma fiscale, al centro più che mai del confronto politico. La manovra, dunque, per centrare il pareggio di bilancio nel 2014, che sarà approvata dal Consiglio dei Ministri entro fine giugno, probabilmente il 23. Poi il varo della legge delega sulla riforma fiscale prima della pausa estiva, dunque entro fine di luglio. Allora, il cuore della riforma fiscale, ci spiegano i colleghi del Sole 24 Ore, resta da un lato il graduale riequilibrio del prelievo delle imposte dirette alle indirette, sostanzialmente un passaggio dalle persone alle cose, dall'altro il riordino delle agevolazioni che sotto varie forme erodono consistenti fette di gettito. Sentiamo Dino Pesole. Il cantiere, come diciamo poc'anzi, c'è sicuramente questo disegno di legge delega che comporterà un primo spostamento del prelievo. Questo si può fare sostanzialmente a invarianza di gettito, dalle imposte indirette dalle imposte dirette a quelle indirette, vale a dire si agirà con ogni probabilità sull'IVA. Una delle ipotesi è quella di incrementare l'aliquota ordinaria, che sta al 20%, e di portarla al 21%. Un'altra ipotesi è addirittura quella di uniformare le aliquote, così come ci chiede l'Europa, e portare anche al 20% la tassazione delle rendite finanziarie. Quindi comunque si farà un intervento sull'imposizione indiretta. Quello che si ricava non lo si sa ancora, perché dipende da come si articolerà la manovra. Quello che si ricava potrebbe essere utilizzato per avviare una prima riduzione del carico fiscale sul lavoro e quindi sui redditi medio-bassi. Questa potrebbe essere una prima operazione che non è obiettivamente indolore, perché toccare l'IVA non è una cosa semplice. Sappiamo che l'IVA è un'imposta importante, colpisce i consumi, colpisce gli affari, e il rischio che ci possa essere ad esempio un pericolo di inflazione, ma anche una risposta negativa dell'economia in una fase in cui l'economia stenta a riprendersi, esiste. Comunque il disegno del governo è sostanzialmente questo, tenendo conto che è una legge delega e quindi conterrà dei principi, le leggi delega non sono immediatamente operative, e poi vedremo. Vedremo, a cominciare proprio dalla prossima e dalla settimana successiva, ricordiamo questa ipotesi 23 appunto, per uno dei passaggi chiave. Ma prima di voltare pagina, di lasciare la politica, voglio condividere con voi uno dei commenti di questa settimana a cura di Stefano Folli, l'editorialista del Sole 24 Ore, che riflette di fatto sul dopo vertice Berlusconi-Bossi, sul logoramento del governo. Le sconfitte del governo in Parlamento dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che il logoramento in atto prosegue ed è molto rischioso. Queste sconfitte non nascono da una causa precisa, ad esempio non sono figlie della rottura esplicita tra Berlusconi e Bossi, rottura che allo stato delle cose non c'è, anzi viene confermata per ora l'alleanza tra PDL e Lega. Eppure il logoramento continua e si manifesta appunto in Parlamento. È la coesione della maggioranza che tende a indebolirsi, come se ci fosse la percezione nelle aule parlamentari, soprattutto fra i transfughi dell'ultima ora, quel drappello che si è aggregato al centrodestra di recente nella speranza di ricavare vantaggi personali, come se ci fosse appunto la percezione che il quadro politico si sta esaurendo e che il dopo Berlusconi si sta avvicinando. È una percezione, diciamo così, prematura, perché non siamo a quel punto. Tuttavia il sentimento si diffonde in Parlamento, insieme all'impressione che il rilancio della maggioranza è difficile, forse impossibile. Vedremo nei prossimi giorni, c'è l'appuntamento di Pontida, dove la Lega dovrà fare i conti con se stessa, e c'è la verifica in Parlamento subito dopo il 20 giugno. Due momenti decisivi per capire quale destino attende la legislatura. Pontida e verifica in Parlamento. Altre decisioni, altri momenti importanti, ma ora voltiamo davvero pagina e affrontiamo un altro tema che da molto tempo attende una decisione definitiva. Punto e a capo. Torino-Lione, mi riferisco proprio a questo dossier, a questa linea ferroviaria, a questo tunnel sotto le Alpi che ormai da anni fa parte del grande progetto della interconnessione europea, che è stato finanziato dall'Europa, che fa parte dei grandi corridoi della mobilità e di cui parliamo da un tempo lunghissimo. Nel frattempo cose importanti sono state fatte neanche lontano da noi, anzi nell'Italia stessa, nella parte dell'Alto Adige, appunto il traforo del Brennero, già i lavori sono avviati e da un pezzo. Ma insomma, a fine maggio, ultimatum posto dall'Unione Europea per aprire i cantieri della Torino-Lione con il cunicolo della Maddalena. L'Unione ha minacciato di revocare i finanziamenti se non si procede con il programma concordato. In una situazione già di per sé delicata e traballante sotto il profilo finanziario, la decisione di Bruxelles equivarrebbe a mettere una pietra tombale sull'opera simbolo dell'ultimo decennio. Allora noi ripartiamo da mercoledì 8 giugno, il ministro degli interni Maroni è a Torino. Abbiamo escluso l'utilizzo dell'esercito, cioè, certo, nelle condizioni attuali non c'è necessità di intervento dell'esercito. La priorità è che l'opera deve essere fatta nei tempi previsti. Al termine di un vertice nella città della Mole, il ministro dell'Interno Roberto Maroni ridefinisce così la strategia condivisa con le istituzioni locali per una gestione normale dell'atteso avvio dei lavori. Una frenata rispetto all'annuncio della disponibilità dell'esercito offerta dal sottosegretario Crosetto, che arriva proprio nelle ore in cui si moltiplicano i segnali di intimidazione rivolti in particolare al Partito Democratico. Dopo le due buste con proiettili indirizzate sabato a due parlamentari piemontesi, ieri mattina un'altra busta con proiettile è stata recapitata nella sede del partito e scritte ingiuriose sono comparse sulla casa del segretario regionale democratico Morgando a Borgiallo. Maroni ha annunciato l'istituzione di un gruppo investigativo interforze per prevenire l'infiltrazione della criminalità negli appalti della TAV e si è appellato ai sindaci valsusini. Gli amministratori, ha detto, stiano dalla parte giusta. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E voi cosa ne pensate? Sareste pronti a investire sull'alta velocità, sulla TAV Torino-Lione? Questo è in sostanza il quesito che a Focus Economia Sebastiano Barisone ha posto a un ospite che, come sentiamo immediatamente, è legato proprio alla storia dell'alta velocità in Italia. Umberto Bertelè, professore, insegna strategia di impresa al Politecnico di Milano e è stato presidente della TAV, quella diciamo... la Milano-Bologna, Torino-Bologna, non c'entrava nulla la Torino-Lione. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, prima domanda, rapidi che abbiamo 5 minuti scarsi. Se lei fosse un privato, visto che lei insegna strategia di impresa, investirebbe i soldi? Sono saliti a praticamente 9 miliardi, di cui 6 circa a carico dell'Italia. Investirebbe 5 e mezzo a carico dell'Italia, 5 miliardi e mezzo per la Torino-Lione? Ma io, se fossi un'impresa, la risposta è chiaramente no. Cioè, l'impresa deve investire con ritorni in tempi ragionevoli. Il mercato finanziario non accetta l'idea che gli investimenti siano troppo lunghi e diventino troppo rischiosi, mentre viceversa io ho sempre creduto in maniera forte che gli investimenti, in particolare quelli infrastrutturali destinati a durare per generazioni, rappresentino un compito essenziale dello Stato. Se lei fosse lo Stato, investirebbe nella Torino-Lione? Ecco, io credo che ci sia un ragionamento importante da fare. Sicuramente l'opera è costosa, probabilmente alla fine, augurandomi che l'opera si faccia, i costi risulteranno superiori a quelli preventivati. Credo che però l'Italia debba evitare assolutamente il rischio di far passare tutti i traffici fra la Spagna, la Francia del Sud, eccetera, e l'est d'Europa al di sopra delle Alpi e venga tagliata fuori completamente da questo circuito. Nella storia abbiamo moltissimi casi di aree ricche che hanno poi subito dei danni molto forti dal fatto di essere tagliate fuori dai traffici. Punto e a capo. Immigrazione e previdenza sociale. Giovedì questa settimana è stato presentato il rapporto Caritas 2010. È sempre interessante, devo dire, leggere le sintesi, i contenuti di questi rapporti. Sono un aggiornamento continuo della società che cambia. Ecco, sul rapporto il nostro Romolo Napolitano ha sentito Maria Paola Nanni, che è una delle curatrici di questo studio. Al 2007 parliamo di almeno 2 milioni e 700 mila persone, laddove per immigrati dobbiamo intendere tutti gli assicurati, i lavoratori appunto assicurati all'INPS, che sono nati al di là dei confini dell'Unione Europea nel suo assetto originario a 15 stati, quindi forse più precisamente potremmo parlare di persone di origine non o neocomunitaria. 2 milioni e 700 mila, un ottavo di tutti gli assicurati all'istituto, forse questa incidenza dà bene la misura del valore veramente strutturale che ormai i migranti hanno assunto per il sistema occupazionale, quindi di riflesso anche per la tenuta del sistema economico e produttivo del paese. Che lavoro fanno generalmente? Si delinea chiaramente il fatto che sono fortemente canalizzati verso un po' tutti quei lavori, tutte quelle mansioni che sono meno appetibili per gli italiani perché segnate da uno scarso riconoscimento sia sul piano retributivo sia poi sul piano del prestigio sociale. Quindi i settori di maggior inserimento sono l'edilizia, il lavoro agricolo, il lavoro domestico, soprattutto settori di maggior inserimento se guardiamo alla quota che ricoprono rispetto poi alla totalità degli iscritti in questi archivi. In valore invece assoluti resta forte l'attrazione anche del commercio, questo però è più in analogia con gli italiani, e del comparto metalmeccanico, che è quello poi che ha subito di più gli effetti della crisi. Punto e a capo. Ancora un saluto da Gigi Donelli, da Roberto Scaltritti in regia. Decisioni dunque, stiamo parlando di questo in fondo, questa è la chiave della settimana, decisioni da prendere, decisioni prese, decisioni da non condividere, ce ne sono alcune, no? Il Brasile, ecco, una di queste è la decisione presa dal Brasile che decide di non estradare Cesare Battisti e decide di liberarlo, e sicuramente è una delle notizie della settimana. Lamenta accordi violati, annuncia ricorsi, minaccia plateali proteste. L'Italia contesta in ogni modo la decisione del Brasile di non estradare ed anzi liberare Cesare Battisti, l'ex leader dei PAC. Una decisione che lede sia gli accordi tra i due paesi che le ragioni della lotta al terrorismo. È la ferma condanna del Presidente della Repubblica, che ricorda come tutto, anche negli anni di piombo, sia avvenuto nel rispetto dello Stato di diritto. Napolitano appoggerà ogni passo che l'Italia vorrà ora compiere, e il primo è un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Aia, già preannunciato dalla Farnesina, che col ministro Frattini lamenta la prevalenza della politica sul diritto. Non abbiamo altra possibilità, cosa vogliamo fare? La guerra al Brasile? Si interroga Silvio Berlusconi, a cui il PD con Rosi Bindi contesta una perdita di credibilità del paese. E se il leghista Roberto Calderoli suggerisce di boicottare i mondiali del 2014, dall'altra parte dell'oceano è il presidente Dilma Rousseff a ricordare che le decisioni della Suprema Corte non si discutono ma si accettano. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora che succede? Che cosa può fare l'Italia? Come può agire di fronte alla decisione brasiliana che l'Italia ha respinto in maniera, direi, raramente unanime? Valeria De Rosa lo ha chiesto a Natalino Ronzitti, che è professore di diritto internazionale alla LUIS. C'è il trattato di conciliazione di regolamento giudiziario tra Italia e Brasile del 54, e quindi prima di andare alla Corte, tentativo di soluzione della controversia per via diplomatica. Se poi questo tentativo fallisce, ci si può fare affidamento ad una procedura di conciliazione, ma non è obbligatorio. Dopodiché, se anche la conciliazione non sorte effetto, a questo punto si apre il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, che non è semplice, perché non è automatico, in quanto che i due stati si devono trovare d'accordo per definire l'oggetto della controversia, che l'oggetto della controversia, visto da un terzo, è chiaro: violazione del trattato di estradizione, se il Brasile aveva l'obbligo di estradare questo individuo all'Italia. Però visto dall'altra parte, ovviamente l'altra parte può frapporre ostacoli. Dopodiché, se si riesce a concludere questo compromesso, si va dinanzi alla Corte. Ecco, qua il discorso è molto complicato, perché la Corte potrebbe decidere in senso favorevole all'Italia, supporre che lo faccia in questi termini, che il Brasile ha violato il trattato di estradizione. Punto e basta. Mi sembra difficile, quasi impossibile, che la Corte possa ingiungere al Brasile di estradare Battisti in Italia. Punto e a capo. Decisione tutta da costruire, decisione da attendere e da valutare ovviamente con grande cautela, quella che riguarda il processo che si è aperto lunedì scorso, lunedì 6 giugno a New York. Dominique Strauss-Kahn si dichiara non colpevole. La prima udienza del processo, che vede l'ex direttore dell'FMI imputato di 7 capi d'accusa, è durata 4 minuti. Il giudice Michael Obus ha riconvocato le parti per il prossimo 18 luglio, dando tempo alla difesa di esaminare qualunque tipo di prova fornita dall'accusa. La cameriera che ha accusato Dominique Strauss-Kahn di avere tentato di stuprarla nella suite di un albergo di Manhattan, intanto ha annunciato attraverso i suoi avvocati che testimonierà contro l'ex direttore del fondo monetario. L'ho detto appunto al New York Times, uno degli avvocati della donna, dopo che appunto nel corso della prima udienza del processo il 62enne francese si era dichiarato non colpevole. Punto e a capo. Un'altra America, proprio completamente un altro approccio, è quella raccontata in America 24 da Mario Platero. È l'America del sogno americano, un sogno che riguarda un camionista bergamasco che ha raccontato appunto a Mario Platero il sogno di viaggiare magari con uno dei bisonti della strada sulle grandi vie, sulle grandi highway americane. Io dico sempre, io amo questa terra, però non sono d'accordo con chi diciamo, quelli che la governano, in poche parole. E invece vedo negli Stati Uniti, vedo un grande paese, proprio perché è abitato da tanta gente di tutte le nazioni del mondo, però vedo negli Stati Uniti, vedo una terra dove, essendo molto grande, però ti dà anche, diciamo, la possibilità, oppure l'opportunità che tu riesca nel tuo piccolo a realizzare il tuo sogno, ecco. Forse perché sono sempre stato innamorato, facendo questo lavoro, di quei camion che guidano là. Che esperienza è stata questa di guidare da Los Angeles a Green River nello Utah? Bellissima, non avrei mai pensato. Mi sono sentito dentro e ti dà questa... almeno a me ha dato questa impressione di sentirmi libero. E se lei dovesse riuscire a venire in America, io le ho detto purtroppo ci sono molti problemi, ci sono problemi di visto, ecco, lei come pensa di venire negli Stati Uniti? Restando sempre nel mio campo, sarei disposto anche a fare, come ci sono qua, il padroncino, no? Anche se comunque ho già un contatto con una ditta in Arizona, Phoenix. Ho parlato proprio con il Director of Human Resource di questa azienda, però anche lui mi ha detto, quando avrai la CDL e avrai la authorization per lavorare negli Stati Uniti, il posto è qui, mi ha detto. E i suoi parenti cosa pensano di questa sua idea di andare in America? Non è un'avventura, però come viene viene, quello che viene accetto e poi mi adatto. Ecco, il mio fine, attenzione, il mio fine non sono i soldi, però è proprio il modo di vita che cerco, dove i miei figli devono capire che vivi in questo paese, devi pagare le tasse, le paghi tu, ma ricordati che le pagano anche gli altri. Invece siamo, secondo me, in un paese, l'Italia, mi spiace a dirlo, però per me è un paese molto corrotto. Quindi lei è pronto ad andare in Arizona con la famiglia? Domani mattina, guardi. Punto e a capo. Verità o apparenza? Da un lato il mondo del calcio squassato dall'ennesimo scandalo scommesse, dall'altro le procure di Cremona e Napoli. Passati i giorni dei titoli a sensazione, tutti a chiedersi quanto arrosto ci sia dietro al fumo di big e VIP coinvolti. Dopo le parole, insomma, servono i fatti, come fa capire il sempre colorito presidente del Cagliari, Massimo Cellino.

di fatturato prodotto ogni anno è comunque un bene di questo paese. Punto e a capo. Come avete visto, è una settimana che ha portato con sé l'esigenza di molte decisioni, e decisioni da prendere è un po' il sottotitolo anche della puntata di Anno Zero, puntata conclusiva, punto di domanda, giovedì sera con l'addio di Santoro, che si è trasformato in una sorta di ultima sfida che contiene però anche un'offerta. Lo sfogo atteso durante tutto il giorno alla fine è arrivato. Michele Santoro parla all'inizio dell'ultima puntata di Anno Zero. Non volevo restare in onda grazie alle toghe rosse, sono figlio di un ferroviere, un orgoglio essere uno della RAI. E al presidente di Viale Mazzini, Paolo Garimberti, che gli ha detto di essere artefice del suo destino, Santoro risponde così. Caro presidente Garimberti, ha ragione, io sono artefice del mio destino. Ma chi è il vero artefice del destino della RAI? Ma non manca di dare la notizia, ancora nessuna firma dell'accordo con la 7. La volete o non la volete questa trasmissione? Perché io non ho ancora firmato con nessun altro editore. E quindi da domani, teoricamente, potrei essere disponibile a riprendere questo programma al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Punto e a capo. La fonte dell'epidemia di Escherichia coli è molto probabilmente nei germogli di fagioli, lo ha detto il direttore dell'istituto Robert Koch, Reinhard Bürger. Insomma, in questa settimana anche la caccia alla origine, alla responsabile della mutazione di questo batterio è stata al centro di tutte le discussioni. Nel frattempo la Germania ha però dichiarato cessato l'allarme sul consumo di cetrioli, insalate e pomodori crudi, e l'annuncio invece di Andreas Hansel, il direttore dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Rischio. Bene, per capire un po' di più che cosa accade intorno a questa vicenda, nel consueto appuntamento con Essere e Benessere, Nicoletta Carboni ha chiesto lumi a una specialista, ovviamente, alla titolare della cattedra di microbiologia clinica all'Università degli Studi di Milano, Rita Gismondo. Detto così, l'Escherichia coli è un nostro amico perché sta dentro l'intestino degli animali e dell'uomo ed è presente con miliardi di cellule, quindi l'Escherichia coli non è di per sé un batterio che ci fa paura. Ci fa paura qualche, diciamo, figlio ribelle, qualche mutante ribelle che ogni tanto può dare una patogenità non usuale. Penso che lei si voglia riferire a quello che ormai viene detto il batterio killer, e questo appunto è un caso in cui una mutazione particolare ci sta dando qualche preoccupazione. Infatti questo di cui parliamo è indicato con il numero 104, ma che cosa ha di diverso e di particolare rispetto agli altri fratelli, cugini, come possiamo chiamarli? Apparentati, diciamo. Sì. Di diverso ha una concentrazione di elementi di patogenicità, e siccome questa caratterizzazione, questo tipo di batterio non ha ancora avuto una circolazione fra gli esseri umani, ovviamente il nostro corpo si trova non pronto, non preparato con le sue difese immunitarie. È un po' quello che è successo con l'influenza A, che era un virus puzzle di altri virus, che ovviamente ha destato qualche preoccupazione. Punto e a capo. Habemus Papam di Nanni Moretti, I fiori di Kirkuk di Faribors Kamkari e Noi credevamo di Mario Martone sono i tre film in gara per la 55esima edizione dei Globi d'Oro, premi dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. La migliore commedia sarà invece scelta tra Benvenuti al Sud di Luca Miniero, Che bella giornata di Gennaro Nunziante e Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno. Tra le altre categorie anche la migliore opera prima. La rosa dei nominati comprende Into Paradiso di Paola Arandi, 20 sigarette di Aureliano Amadei e L'estate di Martino di Massimo Natale. Ecco che da questo fine settimana torna proprio in sala Massimo Natale al microfono della nostra Marta Cagnola. Doppio riconoscimento, diciamo, no? La candidatura ai Globi d'Oro è un'emozione, perché appunto è data da giornalisti della stampa estera, quindi comunque vuol dire un panorama ancora più vario di quello, più esteso di quello nazionale, ed è una grandissima emozione, unita al fatto che si torna in sala, per ora in 6 città e fra un po' speriamo anche di più, quindi vuol dire che quantomeno il cinema italiano non muore dopo una settimana, anche se non è una commedia. Quindi vuol dire che si possono ancora fare film che non siano commedie e che non abbiano grossi budget? Sì, secondo me bisogna tentare per quanto possibile di fare cinema e di farlo di tutti i generi. Poi il pubblico decide, e devo dire che il pubblico è sempre più attento alla qualità e alle storie che si raccontano, e questo è un bene, perché vuol dire che il pubblico cresce insieme a chi fa cinema. Il cinema visto naturalmente, ma anche quello ascoltato, quello raccontato, come sempre qui a Radio 24. Vi segnalo a questo proposito anche l'appuntamento di questo pomeriggio intorno alle 17.30. Michael Cimino è il protagonista della Rosa Purpurea, condotta da Franco D'Assisti, per continuare a parlare, a conoscere il mondo del cinema. E noi siamo arrivati davvero alla conclusione. Non mi resta che ringraziare il regia Roberto Scaltritti e ricordare a voi che questa, come tutte le puntate di Radio 24, le potete trovare su radio24.it, e che tra poco, infine, dopo l'aggiornamento con GR24, c'è il consueto incontro con l'Europa, con l'altra Europa, condotto invece da Federico Taddia. Allora, da parte mia non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana. A presto!